Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergente, il traghettatore, ben trovati. Il mese di febbraio, che si sta per concludere, è il mese dedicato, che noi vogliamo dedicare, a Action Aid, un'associazione che ha utilizzato questo mese per alimentare la raccolta fondi per raggiungere gli obiettivi prefissati, con alcune iniziative di cui parliamo con Marco De Ponte, che è segretario generale e che è con noi. Buongiorno Marco De Ponte. Buongiorno a tutti. Un mese intenso di grandi iniziative, ce ne vuole accennare qualcuna di quelle che delle iniziative che avete intrapreso? Action Aid ha all'inizio del 2012 lanciato una sua nuova strategia che si intitola Italia Sveglia, che parte dall'idea che ci sia un diritto di cambiare le cose per tutti nel sud del mondo, nei paesi poveri, così come sotto casa nostra. Si inizia sempre con il primo passo e questo è sempre sotto casa nostra, quindi per cambiare la percezione di quello che bisogna fare per sconfiggere la povertà in Italia, nel mese di febbraio, dedicato alla giustizia sociale dalle Nazioni Unite, Action Aid ha costruito una campagna di comunicazione che è stata vista sui giornali, le radio, le televisioni, e ha accompagnato a questa campagna una pubblicazione che si intitola Il diritto di cambiare, dove abbiamo comparato esperienze di lotta per la giustizia sociale nel sud del mondo dove operiamo, così come con situazioni che vediamo sotto casa nostra in Italia. Abbiamo promosso questa pubblicazione in varie città italiane con iniziative locali, conferenze, dibattiti, mobilitazione degli attivisti, e chiudiamo questo mese con un'iniziativa di raccolta fondi per un progetto in Etiopia che un po', secondo noi, riassume quelle che sono le tante emergenze in giro per il mondo. Si tratta di un progetto che è volto ad aiutare le donne che sono protagoniste dello sviluppo rurale a prendere maggior consapevolezza dei propri diritti e quindi a cambiare la società nella quale vivono, lì come è possibile fare anche in Italia. Ho letto che questa città si chiama Ankober e quindi voi state raccogliendo questi fondi per un'azione educativa nei confronti di queste donne, per aiutarle a prendere consapevolezza del loro ruolo e a difendersi dalla violenza, dalla povertà, è così? Assolutamente, questa è una componente fondamentale. Dopodiché la questione della lotta alla fame passa per tanti elementi, basti dire che le donne che producono la maggior parte del cibo del pianeta posseggono legalmente solo l'1% delle terre coltivabili. In questo progetto, come in altri lavori che facciamo, enfatizziamo il fatto che le donne devono cambiare la loro relazione di potere rispetto agli uomini, di questo c'è necessità di creare una consapevolezza, sicuramente quindi un aspetto educativo, ma anche poi la rivendicazione di veri e propri diritti sul piano, bene, sul piano grazie. Legale. Grazie al segretario generale di Action Aid. Vi ricordo che fino a questa sera, fino a mezzanotte, è possibile donare 2 euro alla causa di Action Aid. Il numero di telefonino SMS 45502. 8 figure professionali nuove, figure di sostenibilità. Visto l'area che tira, è proprio il caso di ascoltare con attenzione. C'è l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, si chiama ISFOL, quindi andate sul sito per maggiori informazioni, che ha individuato 8 profili che rispondono, secondo questa ricerca, ai bisogni del futuro delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, sostanzialmente cioè a trovare il lavoro. Ve ne accenniamo solo alcune: sono figure originali, esperti di interventi energetici sostenibili o economici finanziari su campo energetico e ambientale, promotore e consulente di materiali edili a basso impatto, esperto per la qualificazione in campo energetico ambientale, esperto in programmazione dei processi produttivi agricoli. Ve ne ho citati solo alcuni. Vi ricordo, il sito è quello di ISFOL. Dalla sostenibilità alla sostenibilità, un gioco di parole estremamente significativo. Domani alla IULM di Milano, a partire dalle 10, c'è una giornata dedicata alla nuova relazione fra l'impresa e l'università. Voi capite quanto questo può essere importante. Grazie di averci seguito. Su ferrybot-radio24 potete cliccare il vostro gradimento sulla trasmissione. Vi ricordo che in redazione Anita Panizza e Gian Gabriel Lombardo hanno collaborato a questa puntata, in regia Nicolò Rinaldi. A risentirci.